America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. And I believe that if we start real talks with Russia, they could be real partners. Arsenio Yatsenyuk, il primo ministro ucraino, lo avete sentito, ha parlato alle Nazioni Unite, un appello perché la comunità internazionale lo aiuti a preservare la sua integrità territoriale. Abbiamo ascoltato un messaggio simile mercoledì quando Yatsenyuk si è incontrato con Barack Obama. Domenica ci sarà il referendum in Crimea e tutti danno per scontato che a quel punto la Russia annetterà la Crimea. Barack Obama ha alzato la voce, ha detto guai a voi se lo fate, ci saranno sanzioni. Lunedì c'è già una riunione in Europa, il G7 si è espresso con toni molto preoccupati, minacciando di nuovo delle sanzioni. Obama ha detto se si andrà avanti lungo questa strada ci sarà un costo da pagare per la Russia. E in questa situazione i mercati cominciano a soffrire, perché ieri abbiamo visto che l'indice Dow Jones ha perso l'1,41%, 231 punti, e a quota 16.108, quindi sembrava avviato verso quota 17.000, invece adesso andrà a testare quota 16.000 al ribasso. Insomma, c'è preoccupazione sul mercato, una preoccupazione secondo me naturale ma forse eccessiva. Gli investitori approfittano magari di un momento in cui si può pensare a una piccola correzione, perché secondo me alla fine si cercherà una soluzione diplomatica. Abbiamo visto che John Kerry partecipa ad incontri col ministro degli esteri Lavrov, lo stesso Barack Obama ha detto cerchiamo di trovare una soluzione diplomatica, come dire, se la Russia e l'Ucraina si mettono d'accordo a noi va bene tutto. Ho con me i microfoni di America 24 Vittorio Zucconi, inviato editorialista della Repubblica dagli Stati Uniti, grande esperto di Russia dove ha lavorato per molti anni. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a te Mario, buongiorno a tutti. Eccoci Vittorio, allora ormai siamo agli sgoccioli perché oggi è venerdì e domenica c'è il referendum andrà avanti, l'America dice che il referendum è illegale, però persone con cui ho parlato a Washington, anche vicino all'amministrazione, dicono dobbiamo ammettere che qui la Crimea è perduta. Come se ne esce? Se ne esce cercando di limitare i danni e di mettere un vestitino bello a una creatura brutta. È evidente che il referendum di domenica è per dare un aspetto di scelta democratica e popolare a qualcosa che è già deciso. Tra l'altro è un referendum che avviene con i soldati russi, sia pure senza le insegne, senza le mostrine che fanno la guardia ai seggi, quindi è difficile che possa uscire un risultato diverso. Quindi la Crimea è già parte della Russia e adesso non si può più tornare indietro. Nessuno porterà mai più via la Crimea alla Russia. Il referendum ha un risultato scontato, bisogna salvare la faccia di Putin, che non può certamente ritirarsi. Tra l'altro c'è un sostegno popolare altissimo a questa operazione, dicono i sondaggi fatti in Russia. Bisogna salvare anche la faccia di Obama, che a questo punto dopo aver detto guai a voi, poi in realtà potrà fare ben poco. Quindi si tratta di dire evitiamo il peggio. Il rischio adesso non è che la Crimea diventi russa, è che dalla Crimea si espanda questo movimento per riunire una parte dell'Ucraina alla Russia, e questo sarebbe intollerabile perché per l'Occidente, per la NATO, per l'America, l'Ucraina è uno di quegli stati cuscinetto che sono necessari per contenere il risveglio dell'orso russo. Secondo te Putin accetta questo compromesso? Gli basta la Crimea oppure ci ha preso gusto? Bisogna tornare alla vecchia formula che usammo negli anni del Watergate, nel caso Nixon, follow the money, seguiamo il denaro, perché poi alla fine dietro i nazionalismi, le facce da salvare, l'uomo forte, Putin, è anche una questione di soldi e di molti soldi, sono i soldi degli oligarchi russi che hanno oramai grossi investimenti in Occidente, sono i soldi delle grandi società che pompano energia, gas come Gazprom. Ti ricordi che il giorno della prima crisi il titolo della Gazprom perse il 25% in poche ore? Quindi questa è la sola vera arma che abbiamo noi in Occidente nelle mani, ma che contemporaneamente ha anche la Russia, perché noi abbiamo contemporaneamente il rubinetto dei soldi, ma loro hanno il rubinetto dell'energia. Ecco perché l'Europa occidentale è così molto più cauta di quanto non siano gli Stati Uniti nelle parole. Allora la soluzione è semplicemente quella di minacciare un intervento economico di sanzioni molto pesante e poi di agitare un'altra minaccia per fermare eventualmente Putin, che non credo onestamente voglia andare oltre la Crimea. E questa minaccia è l'Iran. Ecco, lo scacchiere si allarga. In effetti Barack Obama si è trovato in difficoltà doppie perché a un certo punto l'estate scorsa si è legato mani e piedi a Vladimir Putin, cambiando radicalmente la sua strategia medio orientale sulla Siria, sull'Iran, ha tradito, tra virgolette, l'alleato dell'Arabia Saudita, i quali si sono imbufaliti, hanno persino rinunciato a un seggio alle Nazioni Unite. Ecco, allargando lo scacchiere, che cosa succede in Medio Oriente? Qual è la partita iraniana a cui tu accennavi? La partita iraniana è quella di non dimenticare che l'Iran ha delle immense riserve anche di gas. L'Iran sta, come sappiamo, da qualche mese con questi veri o presunti nuovi dirigenti, gli ayatollah del sorriso rispetto a quelli del muso duro, del grugno degli altri, e sta chiaramente flirtando con gli Stati Uniti sulla vicenda dello sviluppo delle centrali nucleari, dell'ipotesi di bomba che loro negano. E qual è in realtà l'operazione? Se si riesce a ristabilire un rapporto fra l'Iran, l'Europa e gli Stati Uniti, ecco che il gas e le risorse energetiche della Russia diventano meno importanti. Quindi una carta che può giocare Obama, sempre che si fidi abbastanza di quelli di Teheran, è dire attenzione perché noi abbiamo una riserva e questa riserva sta appunto a Teheran. Questo potrebbe ridurre Putin a più miti consigli, a spuntargli un po' l'arma del controricatto economico-energetico e allargare la partita e renderla più gestibile anche da parte americana, perché come dicevi giustamente tu, lì c'è il precedente della Siria, nella quale Obama, dopo essersi lanciato nella sciocchezza della linea rossa, che fu tranquillamente attraversata da Bashar al-Assad, e poi ebbe la faccia salvata da Putin. Quindi torniamo al gioco delle facce, per il quale naturalmente Putin non può in nessun caso permettersi di perderla. Ecco, so che Putin si è infuriato molto quando c'è stata una copertina dell'Economist recente, forse l'avrai vista, a proposito dei giochi di Sochi, dove si vedeva lui che faceva il grande ballerino e alle sue spalle una ballerina russa che invece precipitava nel ghiaccio che si apriva. Come dire, Putin pensa solo a se stesso, alla sua immagine, è il grande zar, ma la Russia continua ad avere grandi difficoltà. Tu conosci a fondo la Russia, ci siamo stati recentemente anche insieme. Come la vedi cambiata, quanto cambiata o no con Putin? Resta la stessa Russia dell'Unione Sovietica? La Russia è un paese che ha dimostrato una capacità sovrumana di soffrire. La Seconda Guerra Mondiale, dopo quello che aveva fatto Stalin, la Russia paga qualunque prezzo pur di non perdere la fede nel proprio destino, quello della madre russa, della patria, della rodina, come si dice in russo. Allora, se Putin riesce a giocare, come del resto fece Stalin 70 anni or sono, la carta del è l'onore della Russia che è in ballo, è il ruolo della Russia nel mondo, dopo essere stata disprezzata, ci hanno dato per sconfitti nella guerra fredda, se riesce a giocare questa parte, i russi sono pronti anche a sopportare effetti e conseguenze di operazioni azzardate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, dei Bee Gees, You Should Be Dancing. È tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.